Allora, bentornate e bentornati alla nostra analisi. Oggi ci immergiamo in un tema che sta, beh, veramente ridisegnando un po' tutto, l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo impatto sulla conoscenza, sulla formazione. Eh sì, abbiamo diverse fonti qui con noi, riflessioni da contesti economici, contributi critici dal mondo della filosofia, della tecnica, analisi da blog e anche documenti internazionali sull'educazione. Insomma, un bel po' di materiale. Assolutamente. E dalle fonti emerge un quadro, direi, piuttosto netto. Siamo di fronte a una vera discontinuità storica. Qualcuno la paragona all'invenzione della scrittura o della stampa addirittura. Addirittura. Sì, perché l'AI generativa, pensa a ChatGPT e simili, non dà solo accesso all'informazione, ormai usa il linguaggio attivamente. Giusto. E questo mette in discussione quello che era un monopolio nostro, umano. Quindi oggi cerchiamo di capire cosa significa davvero questa svolta, nelle scuole, sul lavoro, ma anche per come vediamo l'intelligenza stessa. Interessante punto. Proviamo a entrare nel merito. Cosa cambia nel concreto? Una fonte che abbiamo letto sottolinea che l'AI ci spinge a potenziare le capacità umane, diciamo, superiori. Quali sarebbero? Beh, l'interpretazione critica della realtà, saper applicare le cose in modo strategico, comunicare bene. Non basta più sapere, insomma. Capisco. Serve saper fare e comprendere molto più a fondo. E questo, secondo me, ridefinisce l'idea stessa di competenza, no? Sono d'accordo. Ridefinisce la competenza e, per forza di cose, la formazione. E guarda, in ambito educativo il quadro è complesso, molto. Immagino. Da un lato, potenzialità enormi. L'UNESCO le mette in luce e vediamo anche esperimenti pratici, come al Politecnico di Milano con My Learning Talk. Sì, ne ho sentito parlare. Sono strumenti allenati su contenuti specifici dei corsi, sviluppati insieme a docenti, studenti. Aprono a un'istruzione più personalizzata, più inclusiva. È quello che chiamano hybrid thinking. Hybrid thinking. Sì, in pratica integrare l'AI con il nostro pensiero critico per, diciamo, ottenere di più. Capisco il potenziale, certo. Però le fonti sollevano anche parecchie preoccupazioni, vero? Si parla del rischio di creare nuove disuguaglianze. E questo è un punto dolente. Sia per l'accesso diverso alle tecnologie, sia perché magari tanti insegnanti non sono ancora pronti. E poi c'è una critica a un certo, come dire, tecnoentusiasmo. Sì, un po' fine a se stesso. Esatto, che vede l'innovazione come un valore assoluto, ma senza una base pedagogica solida sotto. Alcuni testi criticano l'influenza del capitalismo di sorveglianza. Quel modello basato sulla raccolta dati. Proprio quello. E anche la logica dei bandi competitivi, che rischia di aumentare le differenze tra le scuole. Questo è il nodo centrale. Ci porta alla domanda: la tecnologia serve l'educazione o viceversa? Già, le fonti suggeriscono che la priorità è formare esperti di didattica, non semplici utenti di AI. E questo ci riporta ai limiti dell'AI stessa, quella attuale almeno. Cioè. Beh, le analisi più filosofiche evidenziano differenze qualitative con noi, non solo la mancanza di un corpo, ma soprattutto l'assenza di quella dimensione affettiva, emotiva, motivazionale, Ah, certo. che per noi umani è fondamentale, influenza come capiamo le cose, come decidiamo. E questo è difficilmente replicabile da una macchina. E questa riflessione sui limiti poi porta dritta alle questioni etiche concrete. Penso al classico trolley problem. Il dilemma del carrello, sì. Applicato alle auto a guida autonoma, affidare decisioni di vita o di morte a un algoritmo, beh, fa pensare. Decisamente. Alcune fonti magari dipingono scenari un po' apocalittici, ma altre propongono una visione forse più equilibrata. Le AI come uno specchio. Uno specchio, esatto. Che riflette le nostre ambizioni, ma anche i nostri limiti. Per questo è importante non fermarsi ai chatbot generalisti, quelli più noti. Bisogna promuovere un uso consapevole, critico. Le fonti indicano strade interessanti. Ad esempio? Ad esempio, le AI come supporto all'analisi di testi complessi. Pensa a strumenti come Notebook LM. O per creare contenuti multimodali, ma in modo integrativo, non per sostituire il pensiero o la scrittura umana. Ok, integrazione, non sostituzione. Esatto, o per una personalizzazione più accessibile, come quell'ipotesi dell'insegnante premium. Si tratta in fondo di rifiutare la logica semplice del buono o cattivo Sì, bianco o nero. e abbracciare un'analisi critica, magari anche guardando a piattaforme alternative, più etiche, più trasparenti. Quindi per tirare un po' le fila, L'intelligenza artificiale ci mette di fronte a domande enormi sul futuro dell'apprendimento, del lavoro. E direi anche di più. Ci costringe a chiederci cosa significhi davvero conoscere, pensare, decidere, in un mondo che iniziamo a condividere con intelligenze non umane. Già. La vera sfida non è solo tecnologica, è culturale, è etica, è politica. Come facciamo a guidare questa trasformazione enorme? Come ci assicuriamo che promuova uno sviluppo umano autentico, equo, critico? E non solo, magari, l'ottimizzazione di processi o la generazione di profitti. Esatto. Secondo logiche che magari non sono nel nostro interesse collettivo. Le fonti ci lasciano con questa domanda aperta. Un invito, direi, a continuare a rifletterci su.